La Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisti e ben ritrovati all'appuntamento con La Rosa Purpurea, il settimanale di cinema di Radio 24. Una puntata che ci racconterà alcuni dei numerosi film che arrivano nelle sale italiane in questo fine settimana, ma non possiamo non cominciare questa trasmissione da dove avevamo lasciato la settimana scorsa. Mancavano poche ore all'assegnazione della Palma d'Oro del Festival di Cannes e chiaramente ormai tutti sapete com'è andata, cioè ha vinto Michael Haneke con il suo The White Ribbon, il nastro bianco, un film che la critica unanimemente ha riconosciuto come straordinario in questo bianco e nero molto rigoroso. Molti hanno scomodato il paragone con Bergman. Certo, Michael Haneke è ormai un regista giunto alla sua maturità artistica assoluta. Allora questo ci fa stravolgere un po' il senso e l'ordine della trasmissione. Vogliamo subito dedicare un approfondimento e un omaggio alla Palma d'Oro del Festival di Cannes e poi andremo avanti con tutte le altre novità cinematografiche di questo weekend. E allora cominciamo subito con l'ascoltare una voce amica di Michael Haneke, ovvero quella di Isabelle Huppert, che oltre ad essere stata la sua pianista nel suo omonimo film è stata anche la presidente della giuria a questo Festival di Cannes, e quindi è toccato a lei l'onore di annunciare la Palma d'Oro. Sentiamo. C'est avec une certaine émotion que je vous dis que la Palme d'Or est attribuée au ruban blanc de Michael Haneke. Michael Haneke è tipo di poche parole, sempre molto ombroso, ma anche a livello fisionomico, e con entusiasmo molto misurato alla sua maniera ha rilasciato delle prime dichiarazioni che parlano di felicità con un tono che tutto sommato sembra invece molto contenuto. Sentiamolo. Parfois ma femme me pose une question. È capitato che mia moglie mi abbia posto una domanda molto femminile, ovvero sei felice? È difficile rispondere perché la felicità è qualcosa di raro, ma ora posso dirvi è uno dei momenti della mia vita in cui sono molto felice. Je peux dire, Suzy, c'est un moment dans ma vie. Je suis vraiment très heureuse. A questo punto io voglio chiamare in causa però un collega che è un grande esperto del cinema di Michael Haneke, regista che personalmente seguo da quando ancora in Italia nessuno lo conosceva, ai tempi di 71 frammenti di una cronologia del caso. Era un autore per pochi, era un autore per chi frequentava i festival internazionali. Poi è arrivata la svolta e Michael Haneke ha cominciato a crescere anche nell'immaginario. I suoi film sono stati regolarmente distribuiti anche in Italia. Saluto al telefono Fabrizio Fogliato, che è l'autore de La visione negata, il cinema di Michael Haneke, edizioni Falsopiano, l'unico libro che mi risulti in Italia su questo straordinario regista austriaco. Ciao Fabrizio. Ciao, ciao a tutti. Allora, abbiamo detto già qualche tratto della personalità di Haneke, uomo molto misurato, molto dark in un certo senso, e il suo cinema invece com'è? Beh, il suo cinema è un po' sintetizzabile nella frase che lui ha detto un po' di tempo fa, quando lui ha detto: i miei film sono una forma di consapevole omissione del lato bello della vita. E non a caso questa frase giustifica anche il fatto che spesso sia un autore molto amato dalla critica, o comunque da certa parte della critica, mentre il pubblico risponda sempre in maniera molto fredda ai suoi film. Giusto anche perché il suo cinema è un cinema freddo, un cinema ragionato, riflessivo, non coinvolge emotivamente lo spettatore, non dà la possibilità di integrarsi con la narrazione e di avere delle risposte, ma spesso agisce sul dubbio e soprattutto provocatoriamente pone quasi sempre esclusivamente delle domande a cui poi ognuno è libero di dare le risposte che vuole. Diciamo che l'elemento del dubbio è un altro di quegli elementi che lo avvicinano a Bergman, se vogliamo, in un certo senso, no? Certo. Cominciamo con la sua filmografia proprio da questo successo di Cannes. Adesso vi facciamo ascoltare una dozzina di secondi, un piccolo passaggio del film Il Nastro Bianco, appunto, che ha vinto il Festival di Cannes. È in lingua originale, sono gli unici materiali attualmente a disposizione, ovviamente, quindi in tedesco. È un film, dicevo, rigoroso in bianco e nero, calato nell'ambiente protestante della Germania del 1913, quindi pre-nazista, e anzi sembra quasi che Haneke voglia raccontare come è nato, diciamo, il brodo sociale nel quale il nazismo si è sviluppato. Il passaggio che vi stiamo per far ascoltare è quello di un dialogo fra il figlio più piccolo di questo pastore protestante, che chiede al padre, rigidissimo, di poter tenere un uccellino che si è fatto male. La risposta del padre è: sei pronto a liberarlo quando sarà guarito? Ascoltiamo. Ich hab ihn gefunden. Er hat sich weh getan. Und? Darf ich ihn behalten? Wie willst du denn das machen? Wir machen ihn wieder gesund. Und wenn er wieder gesund ist? Fabrizio, il nastro bianco, ovviamente l'ha detto molto la critica, aspettiamo di vederlo anche in Italia, probabilmente nella prossima stagione cinematografica, anche se non si esclude qualche passaggio prossimamente a Milano e a Roma nell'ambito di Cannes e dintorni, la rassegna che porta di solito appunto i film del Festival di Cannes nelle due principali città italiane. Andando indietro, come possiamo collocare però il nastro bianco dentro la filmografia di Michael Haneke? Quali sono gli elementi di contatto con gli altri suoi film? E quali sono invece gli elementi di novità? Beh, allora, la filmografia di Michael Haneke segue un percorso ben preciso e il nastro bianco è l'evoluzione, come dire, di questo percorso, è un'evoluzione temporanea, non è un'evoluzione temporale perché sicuramente questo percorso continuerà. Se dovessimo sintetizzare la filmografia di Haneke, andrebbe bene una frase che è quasi matematica. Proporzionalmente all'avanzare del benessere, l'uomo regredisce a uno stato primordiale, dove i sentimenti sono negati, dove la paura costante verso il nemico e ordinaria e quotidiana nella vita di tutti i giorni, e dove soprattutto un irrigidimento delle regole senza motivazioni porta poi a tragedie collettive. E poi c'è stato il passaggio all'analisi della figura del nemico, il nemico che viene da fuori, quindi Funny Games, il nemico che immotivatamente viene da fuori, si introduce nella vita di tutti i giorni e profana quella che è l'intimità della famiglia, e poi il nemico che viene dall'interno, la pianista. Quindi l'incapacità di dividere quella che è una personalità problematica da quella che invece è la vita di tutti i giorni. E allora, visto Fabrizio che hai parlato della pianista, ascoltiamo un breve passaggio di quel film. Devi scusarmi per la lettera. Sono stata un idiota. Non avrei dovuto farlo così, di punto in bianco. Ma che cosa fai? Smettila, alzati subito, smettila! Vieni. Vieni su di me. Hai voglia di me, no? Sei pazza. Grazie allora a Fabrizio Fogliato, autore della Visione Negata, il cinema di Michael Haneke, edizione di Falso Piano, per averci accompagnato dentro la filmografia di questo straordinario regista, Palma d'Oro, al Festival di Cannes. Ciao Fabrizio. Ciao a tutti. È archiviato il doveroso omaggio a Michael Haneke, Palma d'Oro con il nastro bianco al Festival di Cannes. Noi arriviamo subito alla prima finestra sul DVD Game. Come dicevo, trasmissione leggermente rivoluzionata. Cominciamo subito a giocare, cominciamo subito a farvi ascoltare una traccia di un film misterioso che dovete provare a indovinare per vincere il DVD proprio di questo film. Ascoltiamo. Ecco, una delle cose che non sopporto è il sudiciume che lui porta a casa. Oh, mi scusi. Mi dica, da quanto tempo non ha più rapporti intimi con lui? Non posso lamentarmi. La Rosa Purpurea @radio24.it è l'indirizzo di posta elettronica per darci la vostra risposta se avete già indovinato di che film si tratta. Più tardi, altrimenti ci sono altre due possibilità. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme alla Rosa Purpurea, seconda parte del nostro programma. Abbiamo esaurito il doveroso e anche molto sentito e molto voluto da parte del sottoscritto omaggio a Michael Haneke, perché regista che davvero meritava questa Palma d'Oro, e al di là di questa Palma d'Oro i riconoscimenti che ha avuto anche in questa sua carriera, che abbiamo inquadrato insieme a Fabrizio Fogliato. Però adesso la Rosa Purpurea torna alla normalità, fra virgolette, perché cominciamo a raccontarvi un po' i film che trovano la via della sala in questo fine settimana. Sono parecchie, sono 8 le pellicole che escono, non sempre con distribuzioni capillari, quindi insomma saranno magari favoriti gli abitanti dei grossi centri, che avranno la possibilità di scegliere fra qualche film in più. Noi ne abbiamo scelti 4 da raccontarvi e come sempre abbiamo condensato le suggestioni di questi 4 film nel nostro audio sommario. Signor Waters, siamo suoi grandi fan. Il nostro gruppo si chiama come una delle sue canzoni. Sì. Rolling Stones. Benvenuto nella Cadillac Records. Resta con noi e saremo una cosa sola. La macchina è tua, te la sei guadagnata. Tu sei il mio paparino bianco. La sei matto. È da 39 anni che ricevo un fiore incorniciato per il mio compleanno. Chi pensa che sia a mandarglielo? Chi ha ucciso Harriet? È un sadico porco che odia le donne. Qual è il suo nome? Mi chiamano tutti Coco. Il tuo destino è speciale. Tu non assomigli a nessuno. Divertente. Servirà per il futuro. Ma tu quanti anni hai? Io? 76. Abbiamo ancora 4 anni. E Allora cominciamo con la moda. Cominciamo con la moda perché il primo film di cui vogliamo raccontarvi è Coco avant Chanel, l'amore prima del mito, questo è il sottotitolo italiano, il film è di Anne Fontaine e ha come protagonista Audrey Tautou, ovvero l'attrice che aveva animato il fantastico mondo di Amélie. Un film che ci racconta il lato umano più che quello professionale di Coco Chanel, partendo dall'infanzia. Ricorda un po' in questo senso come approccio il bel film su Edith Piaf, che era stato realizzato un paio d'anni fa, proprio partendo dall'infanzia difficile di questa grande protagonista della moda internazionale. E non poteva esserci a raccontarci questo film persona migliore di Micaela Bellisario, che oltre a essere la nostra esperta di novità americane è anche una grande esperta di moda. E allora, Coco avant Chanel nel racconto di Micaela Bellisario. Lei come si chiama? Gabrielle, ma tutti mi chiamano Coco. Io sono Boy, ma in Inghilterra sono Arthur Capel. La cosa fastidiosa dei soprannomi è che è difficile disfarsene. È una condanna. Mio padre mi chiamava Coco. Ogni mattina mi svegliava cantando Cocorico. Poi è diventato Cocorico Cocò e poi è rimasto. Sigaretta sempre in bocca, pelle diafana e stile mascolino, semplice, inconfondibile. Questa è Coco Chanel, la grande mitica couturière di Rue Cambon a Parigi. Ma chi era davvero Mademoiselle prima del suo sbarco nella Ville Lumière? In Coco avant Chanel, l'amore prima del mito, non si raccontano i successi e le sfilate della maison, ma l'infanzia e il suo passato difficile. Ecco Gabrielle, così si chiamava in realtà, che forgia il suo carattere trascorrendo i suoi primi anni di vita in un orfanotrofio per poi calcare le scene nei cabaret. Sì, perché il vero obiettivo di Coco Chanel all'inizio era diventare una cantante. J'ai perdu mon pauvre Coco, Coco mon chien que j'adore, tout près du Trocadéro. Il est loin, s'il court encore, je l'avoue mon plus grand regret. Dans ma perte si cruelle, c'est cru que mon monde me trompait. Plus Coco m'était fidèle. E in uno dei tanti cabaret conosce il frivolo barone Balsan, che la manterrà a lungo, offrendole agio e ricchezza. In questo periodo che Coco intravede il suo talento, comincerà a disegnare cappellini per le dame dell'alta società, di cui disprezza i vestiti appariscenti, i corsetti e le piume, ma è di Boy, un uomo d'affari inglese, che Coco si innamorerà perdutamente. Questo primo grande amore avrà un finale tragico, ma sarà determinante per la sua vita. Sarà grazie a lui se riuscirà a sbarcare a Parigi per creare il suo impero. Creerò dei cappelli. È un'idea eccellente, ma non serve andare a Parigi, puoi farlo qui, ti comprerò tutto ciò che ti serve. Non è facendo 3 cappelli per le tue amiche che riuscirò a fare fortuna. Non vorrei sul serio metterti a lavorare? Non ha senso. Tu che ne pensi? Penso che abbia ragione. Forse da voi in Inghilterra fate lavorare le donne, ma a noi resta ancora un poco di galanteria. Didascalico, ripetitivo, lento e sicuramente poco originale dal punto di vista registico, il film viene trascinato però dall'ottima prova di Audrey Tautou. L'attrice convince nella postura, nello stile e nell'identificazione con la grande stilista. A lei abbiamo chiesto allora cosa in comune con il personaggio. L'unica cosa che abbiamo in comune sono forse la stessa lucidità e attenzione nel guardare il mondo che ci circonda, la fiducia nell'istinto, la capacità di capire subito la personalità dell'altro. Abbiamo in comune il fatto di comportarci secondo la nostra personalità, le nostre convinzioni e la nostra natura. De liberté, oui, qui ne va pas plier e baisser la tête devant qui que ce soit. En l'occurrence, elle ne peut avoir aucune certitude. Ed eccoci alla seconda finestra aperta sul DVD Game, il nostro gioco che vi fa vincere tutte le settimane degli splendidi film in DVD. Ascoltiamo la seconda traccia. Vorrei tanto che non invitaste qui a cena mio marito. Tuo padre e io gli siamo affezionati. Già, ma vorrei che non lo invitaste. È piuttosto seccato per i libri che hai preso. Ma erano miei e non ho preso altro. Hanno lasciato dei vuoti, dice. Oh, Gesù. Ma nel matrimonio, oltre ai bisticci sulla proprietà, non c'è altro. La Rosa Purpurea, @radio24.it, è l'indirizzo di posta elettronica per provare a vincere questo DVD, un film che affonda le radici nel passato del cinema, insomma non è un film molto recente, quindi cominciate a pescare anche nella vostra memoria. Vi ricordo anche che alla Rosa Purpurea, @radio24.it, potete anche scrivere le vostre impressioni sul film nel quale vi siete particolarmente immedesimati nella vostra vita. Io in un film, questa iniziativa che stiamo portando avanti sin dalla puntata speciale della Fiera del Libro di Torino e chi ci scrive due righe per spiegarci le sue scelte può scegliere poi fra un novero, ancora per qualche settimana, fra un novero di film che potrà ricevere in DVD, film tratti da grandi capolavori della letteratura. E a proposito di film tratti da grandi libri o da grandi successi editoriali, arriva nelle sale italiane Uomini che odiano le donne, tratto dal bestseller di Stieg Larsson, che è tra l'altro il primo film di una trilogia intitolata Millennium, un noir in salsa scandinava. E allora ascoltiamo il racconto di Uomini che odiano le donne di Daniela Faggion e subito dopo le dichiarazioni rese dal regista Nils Arden Oplev al microfono di Boris Sollazzo. Blomqvist è pulito. Non ho trovato niente su di lui, è completamente pulito. Non credo che abbia fabbricato le prove contro Wennerstrom. Secondo me l'hanno fregato. Michael Blomqvist è un giornalista prossimo alla galera. Per un'inchiesta pubblicata sulla sua rivista, Millennium, ha perso una causa per diffamazione con un finanziere e gli restano 6 mesi di libertà. A trovargli un'occupazione, nel frattempo, ci pensa un ex magnate dell'industria svedese che chiede a Kalle di indagare sulla scomparsa, avvenuta quasi 40 anni prima, della nipote Harriet. È tornata a casa intorno alle 2 del pomeriggio. È venuta da me e voleva parlarmi. Ma io ero troppo impegnato con la riunione. Michael è spiato da Lisbeth Salander, ragazza enigmatica che di mestiere fa l'hacker e nasconde un passato misterioso. Incuriosita dalla figura di Blomqvist, la ragazza interviene nelle sue indagini attraverso la rete, ben consapevole di poter essere individuata, e così puntualmente accade. Le piste di Michael e le intuizioni di Lisbeth diventano una ricerca congiunta. Partendo dallo sguardo angosciato della bella Harriet su un vecchio giornale, i due ricostruiscono un sentiero di morte e violenza che si districa tra casi di cronaca lontani e personaggi insospettabili. Una bella impresa quella di portare sul grande schermo le quasi 700 pagine del romanzo di Stieg Larsson, un'impresa che il regista Nils Arden Oplev affronta con uno stile semplice ma efficace, appassionando lo spettatore alle vicende che si dipanano da un plot alquanto complesso. Affascinante il personaggio di Lisbeth Salander, ormai un'icona letteraria, che nel film viene incarnata da Naomi Rapace. Sentiamo dall'attrice danese come si è preparata e trasformata per Lisbeth. I think that it was in the beginning of the September when Nils told me that he wanted me to play Lisbeth. Ho fatto il provino a settembre e ho avuto fino a febbraio per potermi preparare. Ho preso lezioni di kickbox e Thai box, mi sono allenata molto e ho seguito una dieta particolare per attenuare, addirittura eliminare, in un certo senso, le mie rotondità femminili e risultare decisamente mascolina anche nell'atteggiamento. Ho tagliato i capelli, ho fatto i piercing, ho preso la patente per la moto. Poi c'è stata la preparazione emotiva, allo stesso modo importante. Non ho una tecnica particolare per entrare in un personaggio. Diciamo che cerco dentro di me gli elementi per interpretarlo. Detesto arrivare sul set e far finta di essere qualcun altro. Attingo dalla mia infanzia, dal mio background, ripescando odio, disprezzo, dolori e sofferenze che ho dentro. Con il regista abbiamo lavorato molto per creare Lisbeth. To find the right way of going into her. Cosa l'ha convinta ad accettare questo film, questa responsabilità? Before I said yes to do this film, I said that I would only do it if I had total artistic control. Prima di accettare di dirigere il film, ho chiarito che avrei detto sì solo in cambio di un controllo artistico totale: casting, sceneggiatura, lunghezza e fotografia. Ogni aspetto artistico, insomma. Sono una persona molto solitaria. Se voglio tutte le responsabilità, poi me le prendo tutte, sperando di prendere le decisioni giuste. Se non funziona, è tutta colpa mia. Le aspettative sulla trasposizione dal libro al film mi sono state d'aiuto. Quando non c'è abbastanza denaro, il tempo è poco, si è esposta alla tentazione del compromesso, alla quale però io dico sempre di no. Voglio girare nel miglior modo possibile, perché la qualità è alla fine l'unica cosa che conta. In questo senso le aspettative sono state la mia armatura per restare sulla retta via e non cedere al compromesso. Was my armor to stay on the right course and not to compromise. Qual è il principale interesse che ha scoperto in questo testo che prima non conosceva? For me the most interesting thing is the character of Lisbeth Salander. My first film in Denmark is called Portland. L'aspetto più interessante è il personaggio di Lisbeth Salander. Il mio primo film in Danimarca è stato Portland, un'opera dark, molto dura. E il personaggio principale era molto simile a quello di Lisbeth, qualcuno colpito duramente dalla vita, che esprimeva odio e rabbia. E ho trovato molte similitudini con il personaggio che creai nel 1996. Sono interessato agli esseri umani, ai loro drammi, alle loro emozioni. Quando ho letto il libro ho avuto la netta impressione che avrei potuto fare qualcosa di unico, da un lato perfetto per un film di intrattenimento all'americana, dall'altro che rispecchiasse i caratteri più controversi del cinema europeo, che punta a emozioni e temi sociali forti. Ho pensato che questo film avrebbe potuto ripetere, anche se con caratteri decisamente più scandinavi, il lavoro di commissione delle due cinematografie compiuto da Luc Besson con Nikita, un film seduttivo ma anche realistico. Ed ecco il perché delle scene di aggressione di cui Lisbeth è protagonista. Tacerlo e edulcorarle avrebbe determinato una trasposizione sbagliata del libro. Because else it would disappear into like a softer version, for me would have been a very bad version. La rosa purpurea. Terza parte della Rosa Purpurea, siamo ancora qui a raccontarvi tutto il cinema che c'è, o insomma quasi tutto in questa settimana di molte uscite. Cominciamo con un film che l'anno scorso ha destato sicuramente grande interesse. Non parlerei di scandalo, perché questo non è assolutamente successo, il pubblico e la critica sono ormai maturi per questo tipo di film. Ma insomma, discussione, sì, questa è stata alimentata molto da questo film che si intitola in originale tedesco Wolke 9, Nuvola 9 sarebbe il titolo, la traduzione letterale. In Italia esce con il titolo, secondo me, per una volta tanto più azzeccato, di Settimo Cielo. Racconta un amore senile, un amore sessuale, fisico, addirittura esplicito, in una coppia, tra l'altro adultera, di ultra settantenni. Sono i suoni della vita di Inge, sessantenne, sposata da 30 anni e innamorata di suo marito. La macchina da cucire con la quale esegue in casa piccole riparazioni di sartoria, il ferro da stiro e poi il tram che la porta dai clienti a riconsegnare i lavori effettuati. Ma da qualche tempo c'è un cliente un po' particolare. È Carl, 76enne, persona a modo, discreta, che esercita su Inge un fascino che presto diventa attrazione. Mi trovo a passare da queste parti e ho pensato di venire a riportarti i pantaloni. Ecco. Ma si può vivere l'amore adultero nella terza età? Inge e Carl si lasciano andare ai sentimenti e quel che non doveva succedere accade. Continuo sempre a pensare a Werner. Il principale merito del film di Andreas Dresen, 45 anni, uno dei registi tedeschi più interessanti della sua generazione, è quello di raccontare finalmente una vecchiaia che non si limita ad esistere, ma chiede tutto alla vita. Ama sentimentalmente e sessualmente. E tutto ciò viene mostrato allo spettatore, senza falsi pudori, rimuovendo un tabù del cinema che vuole i vecchi come oggetto di compassione, da non mostrare mai nella loro nudità, quasi non avessero un corpo e delle pulsioni, dopo i 60 anni. Dresen dirige in maniera asciutta, senza indulgere in compiacimenti fini a se stessi. Ci mostra la vita di due anziani in una qualsiasi città moderna di oggi e quindi c'è un valore universale di questa storia. Due anziani che hanno deciso che il tempo è troppo breve per non viverne le emozioni e, se necessario, pagarne le conseguenze. E alla fine tutti vorremmo invecchiare un po' come loro. Settimo Cielo nei cinema italiani, distribuito dalla Archibald, etichetta che come sempre contrassegna film di grande qualità, così come un film di grande qualità e di grande storia, è il film oggetto del nostro DVD Game di questa settimana. Per cui ascoltiamo insieme la terza e ultima traccia. Allora è sicuro che ci vai a New York? Credo di sì. Ma non ci starò molto a lungo. Ero certo che avresti rinunciato al nostro viaggio. Ma no. Lo faremo quando torno, Daniel. È inutile. Ma io lo voglio fare. Inutile. Vuoi qualcosa da bere? No. Un aiutino bisogna pur darvelo. Dicevamo, un film che non è recentissimo, un film che quando uscì ebbe la forza anche di aprire, anche in questo caso, una polemica, un dibattito, perché per primo forse apriva le finestre in questo modo così esplicito su una grossa ipocrisia, che era quella del rapporto fra il cinema e l'omosessualità. Ecco, questo film è una pietra miliare dell'emancipazione di questo rapporto. La Rosa Purpurea, @radio24.it, è l'indirizzo di posta elettronica per scriverci se avete indovinato di che film si tratta. Noi a questo punto apriamo un'altra parentesi che è figlia, nipotina, diciamo, del nostro DVD Game e che è Io in un film. Come dicevamo, vi stiamo chiedendo di scriverci al nostro indirizzo in quale film vi siete immedesimati nella vostra vita. Ebbene, Claudia di Ancona ci colpisce con una scelta sincera ma anche abbastanza stimolante, soprattutto per una donna. Dice Claudia: avevo fino a qualche anno fa, adesso non potrei più dirlo, un film la cui protagonista sentivo molto simile a me. Sesso, bugie e videotape, uno dei primi film di Steven Soderbergh. Ecco, anch'io sono, fra parentesi, ero, dice Claudia, insoddisfatta, iperperfezionista, abbastanza maniaca della pulizia, come la protagonista, anche io ovviamente, affascinata dai tipi un po' oscuri. E quali donne non sono affascinate dai tipi un po' oscuri, dice il cronista. Ebbene, torniamo alla lettera. Come l'amico del marito di Anne, interpretato da Jane Spader. Peccato che quest'attore si veda così poco al cinema. Sottolineo, tra l'altro, la notazione di Claudia, perché proprio in questi giorni mi è capitato di pensare a che fine avesse fatto Jane Spader. 10 anni fa era un attore quasi immancabile in molto cinema americano, anche d'autore, adesso non lo si vede praticamente più. Indagheremo sui suoi nuovi progetti. Ebbene, quindi il film dell'immedesimazione di Claudia è appunto Sesso, bugie e videotape. Claudia riceverà a casa uno dei DVD di film tratti da grandi opere letterarie. Vi ricordo, per dire la vostra, in quale film vi siete immedesimati, La Rosa Purpurea, @radio24.it. E il prossimo film ci porta in un clima decisamente musicale, una delle stagioni più belle della musica black, cioè gli anni 50, in cui un'etichetta, la Chess Records di Chicago, sfornava leggende del rhythm and blues come Muddy Waters, Etta James e Chuck Berry. Dirige il film Darnell Martin, nel cast tra gli altri Beyoncé Knowles, ovvero una grande star della musica leggera internazionale, e Adrien Brody, il pianista di Polanski. Cadillac Records, nel racconto di Barbara Righi. L'ascesa della Chess Records e dei suoi artisti. Cadillac Records racconta, sul solco di film come Ray o Dreamgirls, i favolosi anni 50 e 60, le vite turbolente di alcune leggende musicali americane. La storia di come il blues è diventato popolare e ha dato l'avvio al rock. Leonard Chess, interpretato dal premio Oscar Adrien Brody, e Muddy Waters, che ha il volto di Jeffrey Wright, si incontrano quando quest'ultimo suona con la sua band nel locale gestito dal futuro produttore. Chess propone al chitarrista un contratto discografico e da qui inizia l'ascesa della leggendaria etichetta. Il produttore tratta i suoi musicisti come se fossero di famiglia e compra loro una Cadillac in occasione del primo successo. Se lo faccio sentire alla radio, farò diventare te famoso e lui ricco. Ha detto io famoso e lui ricco? Fino al 1955 nessun artista della Chess riesce a sfondare nel mainstream, fino a quando non arriva un tipo magro di St. Louis che si chiama Chuck Berry e che presenta brani trascinanti e intrisi di country. All'apice della carriera, Berry viene imprigionato e allora Chess trova un'altra artista di grande stoffa, è Etta James, impersonata da Beyoncé Knowles. Il suo talento è in grado di superare qualsiasi barriera. Che ne capisci tu di blues? Ti ho cantato un ottimo pezzo. Non ti piace? Canta tu. Voglio prendermi cura di te. Non ho bisogno delle cure di nessun uomo. Cadillac Records è anche una pellicola sull'amicizia, ha spiegato la regista Darnell Martin, che ha continuato. Il produttore Leonard Chess è fondamentale per il film, ma non volevo che fosse il fulcro del film. Fra le curiosità, la ricostruzione di come è nata la rivoluzionaria At Last, tutte le canzoni, ad eccezione di Last Night di Little Walter, sono state reinterpretate dagli attori. Esaurite le nostre scelte cinematografiche, poniamoci il quesito settimanale. Chissà se qualcuno di questi film riuscirà a trovare il suo posto in una classifica del box office che è dominata in lungo e in largo dagli Angeli e i Demoni di Ron Howard. Non ce l'hanno fatta i film che sono usciti la scorsa settimana. Trovo difficile pensare che qualcuno dei film di questa settimana possa avere ambizioni di incasso di quel livello. Ma sentiamo come sono andate le cose al botteghino 7 giorni fa nella Screen Parade di Daniela Faggion. Due nuove entrate in top 5 non scalfiscono il predominio di Tom Hanks e Compagnia Diabolica. Scende al quinto posto 17 Again, Ritorno al liceo, che con altri 257.000 euro supera il milione. Debutta al quarto posto Vincere di Marco Bellocchio, tornato a bocca asciutta da Cannes, in sala incassa più di 500.000. Adesso mi chiamo Benito Mussolini! Io mi chiamo Benito Mussolini! Sul podio per un pelo rimane San Valentino di Sangue 3D, che aggiunge 450.000 euro al suo bottino e sfiora i 5 milioni complessivi. Subito medaglia d'argento per Una notte al museo 2. L'allegra combriccola guidata da Ben Stiller debutta con 1.300.000. Ivan il Terribile, Napoleon Bonaparte e il giovane Al Capone. Imprendibile Angeli e Demoni, il nuovo film tratto dal romanzo di Dan Brown, più di 2.300.000 nel weekend scorso, più di 12 10 milioni di euro in 12 giorni. E prima di passare la linea alla regia, apriamo un'altra rubrica che è sempre molto gradita ai nostri ascoltatori, ovvero Trailer USA, che ogni settimana vi fa ascoltare attraverso i suoni dei trailer originali le novità cinematografiche a stelle e strisce. Per introdurvi il film di oggi basta una frase: elementare, Watson. L'avrete capito, stiamo per anticiparvi il trailer del nuovo Sherlock Holmes, un progetto molto ambizioso firmato da Guy Ritchie. Non è certo la prima volta, perché al personaggio inventato da Arthur Conan Doyle nel 1903 si sono ispirate ben 200 produzioni, 200 film fra TV e grande schermo, e oltre 75 attori che hanno vestito gli indimenticabili panni appunto dell'investigatore, tra gli altri l'ex 007 Roger Moore. E allora ritroviamo la nostra Michaela Bellisario, alla quale chiediamo subito di introdurci nelle atmosfere del nuovo film dell'ex marito di Madonna. In effetti hai citato Roger Moore, l'ex 007, e lo Sherlock Holmes di Guy Ritchie vuole essere proprio una specie di James Bond del 1891, insomma uno Sherlock Holmes ante litteram, come si dice, anticonformista e moderno. Non porterà il classico cappello da cacciatore di cervi, né il soprabito con la mantellina sulle spalle, ma anzi sarà spesso a torso nudo perché gli piace combattere, e nel tempo libero questo Sherlock Holmes sarà anche abbastanza indolente. Il cast in effetti, Michele, è interessante. Sherlock Holmes interpretato da Robert Downey Jr., difficile fare classifiche, ma io lo metterei in questo momento fra i primi 5 attori del mondo, e Watson, l'eterno numero 2, interpretato niente meno che da Jude Law, insomma un cast di peso davvero internazionale per questo film. Bisogna dire in effetti che Robert Downey Jr. appare decisamente interessante in questo film, ma soprattutto molto sexy. Non esce fuori la classica figura polverosa che siamo abituati a immaginare. Il trailer che sentirete tra poco sembra quasi rimandare più a scene da Fight Club, il famoso film con Brad Pitt e Edward Norton. Vedremo Sherlock Holmes anche a petto nudo in diverse scene, mentre fa botte in una sorta di ring. Ecco un passo in cui Watson si arrabbia con il suo capo proprio per questo suo vizietto di passare le notti a combattere. You've never complained about my methods before? I never complain. When do I complain about you practicing the violin at 3 in the morning? Or your mess? Your general lack of hygiene? Or the fact that you steal my clothes? Ecco, Watson sarà sempre poi quello che operativamente tirerà fuori dai guai Sherlock Holmes, che nel film di Ritchie è anche un investigatore piuttosto donnaiolo. Vi facciamo ascoltare una scena in cui una cameriera lo trova legato al letto al mattino dopo con le manette completamente nudo. Madam, I need you to remain calm and trust me, I'm a professional. But beneath this pillow lies the key to my release. Perfetto, ricordiamo che il film uscirà il 13 novembre negli Stati Uniti e il 12 dicembre in Italia, sarà uno dei grandi film di Natale. Ciao Michaela. Ciao Franco, alla prossima settimana, un saluto ai nostri ascoltatori. La Rosa Purpurea. È la quarta parte della Rosa Purpurea, la parte conclusiva del nostro programma, come da tradizione dedicata alle uscite in DVD e anche al gioco con il nostro DVD game. Cominciamo subito con il farvi ascoltare una breve traccia di quelle che vi avevamo proposto 7 giorni fa per il DVD game della Rosa Purpurea. Ascoltiamo insieme. Forza, personaggio storico? Mi batterei con Gandhi. Ottima risposta. Sentiamo, tu? Lincoln. Lincoln? Alto, braccia lunghe, i magri si battono fino a spappolarsi. Si trattava di Fight Club, il film di David Fincher, tratto tra l'altro dal libro di Chuck Palahniuk. Abbiamo parlato tanto 2 settimane fa di cinema e letteratura nella puntata in onda dalla Fiera del Libro di Torino, peraltro sempre tratto da Chuck Palahniuk, è nelle sale cinematografiche italiane in questi giorni Soffocare, quindi potete fare anche un raffronto. Fight Club, quindi, hanno vinto Alvise Maniero di Mira, provincia di Venezia, e Giulio Boncompagni di Roma, rispettivamente il più bravo e veloce del sabato e della domenica, riceveranno a casa appunto il DVD di Fight Club. E noi, per parlare meglio della edizione in DVD di Fight Club, siamo in collegamento con il nostro Claudio Pofi, che saluto. Ciao Claudio. Ciao Franco, eccoci pronti. Allora, Fight Club, dicevamo, un sì, cult movie sicuramente, perché è un film che è rimasto molto impresso. Quando uscì si pensava a una baracconata, perché questo posto dove ci si scazzotta sostanzialmente, ci si mena così un po' gratuitamente. Invece dietro c'era una filosofia che nel tempo ha fatto crescere l'importanza e il peso di questo film. Adesso parliamo invece di questo DVD con Claudio Poffi. Allora Claudio, come ce lo racconti? Sì, il film è disponibile da diverso tempo e c'è stata una notevole cura da parte della produzione nel riuscire a trasferire al meglio delle possibilità del DVD quest'opera. Fincher l'ha realizzata con toni particolarmente cupi, quindi c'è una fotografia molto difficile che riesce a venire fuori comunque all'interno del DVD, che offre tra l'altro due tracce sia in italiano che in inglese in Dolby Digital Multicanale. Si può approfondire la lavorazione dell'opera con un interessante backstage, sono presenti tra l'altro tre videoclip e uno speciale sul film. Siamo in attesa che quest'opera, come tante altre non ancora disponibili, sia pubblicata anche in Blu-ray alta definizione. E questo per quanto riguarda Fight Club, quindi aspettiamolo anche in Blu-ray, prima o poi arriverà. Andiamo avanti con un altro film, a proposito di atmosfere cupe, lo sono sicuramente anche quelle di Come Dio Comanda, l'ultimo film in ordine di tempo che Gabriele Salvatores ha realizzato nelle sale italiane all'inizio di questa stagione cinematografica. Allora, ascoltiamone un breve passaggio. Cristiano? Sì? Portami una birra. Vado a letto, prenditela tu. No, me la porti tu. Che ti è successo? Niente. Cos'hai fatto? Ho fatto botte. E tu? Gli hai fatto male? Non gli hai fatto un cazzo? Eh? Non sei capace di difenderti? Mio figlio non sa difendersi! E allora siamo in questa landa desolata del nord-est Italia, dove vivono un padre e un figlio, l'uomo disoccupato che educa ostinatamente questo adolescente timido e irrequieto che i compagni schivano, le ragazze umiliano, che fa le scuole medie. Sono veramente soli contro tutti, contro il mondo, e hanno un solo amico, questo disgraziato offeso da un incidente coi fili dell'alta tensione, e dietro l'angolo una tragedia che coinvolgerà tutti. L'opera realizzata in DVD da parte di 01 è assolutamente ineccepibile, grandissima qualità, anche in questo caso una traccia in Dolby Digital Multicanale, e sono presenti degli approfondimenti che nella versione DVD vedono appunto dei focus sulla lavorazione, la colonna sonora, un trailer e galleria foto, oltre a un'intervista a Gabriele Salvatores. Il film, ricordo, è edito anche in Blu-ray alta definizione, dove c'è una netta differenza, perché solo ed esclusivamente per il Blu-ray è presente il commento del regista Gabriele Salvatores, visionabile e ascoltabile durante il film in una versione immagine nell'immagine. E grazie allora a Claudio Poffi, appuntamento fra 7 giorni qui per la nostra zona DVD della Rosa Purpurea. A presto, un saluto. Salutato Claudio Poffi, non abbiamo però concluso la nostra parentesi dedicata ai DVD, perché abbiamo un'altra edizione da raccontare, un'altra uscita davvero molto particolare e anche molto bella, e lo facciamo questa volta con un altro ospite, ovvero con Cesare Petrillo, che è uno dei fondatori, insieme a Vieri Razzini, della Teodora, egregia benemerita casa di distribuzione cinematografica e di home video. Benemerita perché la scelta è sempre quella di una grandissima qualità e soprattutto della scoperta del migliore cinema d'autore, e non solo, anche quello un po' da riscoprire appunto nel passato. Ed è proprio di questa operazione che vi parliamo, perché da qualche settimana è in circolazione nelle videoteche un cofanetto strepitoso dedicato a Mitchell Eisen, un nome, un regista che magari non è popolare immediatamente come tanti altri suoi coevi, pensiamo a Ernest Lubitsch, pensiamo a Billy Wilder, ma che ha davvero fatto in quell'epoca d'oro della commedia americana la fortuna di quel genere, esattamente come questi altri registi che abbiamo citato, con film come La signora di mezzanotte, soprattutto il suo film più conosciuto, ma anche Che bella vita, Ricorda quella notte, Non c'è tempo per l'amore. Tutti i film che ritroviamo, sono ben sei i titoli, ritroviamo in questo cofanetto che adesso Teodora ha mandato in distribuzione nelle videoteche. Grandi interpreti come Barbara Stanwyck, Ginger Rogers, Claudette Colbert, protagonisti straordinari per film sempre molto, molto garbati, girati con grande padronanza del mezzo, da un regista brillante che forse ha avuto, chissà, un cattivo ufficio stampa, una comunicazione non all'altezza, ragionando con i termini e le categorie di oggi, ma che sicuramente è rimasto indietro nella popolarità, pur non essendo assolutamente indietro nella tecnica narrativa e nella capacità di far vivere queste bellissime commedie. E allora, chi era Mitchell Eisen? Perché è importante riscoprire il suo lavoro? Lo abbiamo chiesto, come dicevamo, a Cesare Petrillo della Teodora. Allora, intanto partiamo dalla scoperta di Mitchell Eisen. È stata fatta grazie a questo film che si chiama La signora di mezzanotte. La signora di mezzanotte è un titolo che è rimasto abbastanza celebre nella storia del cinema ed è effettivamente una commedia formidabile, con tutti i tempi giusti, attori perfetti, cioè Claudette Colbert, Don Amici e John Barrymore, e una sceneggiatura di Billy Wilder, del primo Billy Wilder, per cui per molto tempo si è attribuito la grandezza di questo film a Billy Wilder. E poi andando a guardare altri film di Mitchell Eisen che abbiamo scoperto insieme a Vieri Razzini negli anni, all'inizio degli anni 90 per Rai 3, ci siamo resi conto che le commedie formidabili di Eisen erano parecchie. C'era non solo La signora di mezzanotte, ma c'era Che bella vita, c'era Arrivederci in Francia, c'era La manicure, erano tante. E poi dopo, andando a studiare la biografia e la carriera di Mitchell Eisen, abbiamo scoperto che in realtà negli anni 30, dalla seconda metà degli anni 30 e per tutti gli anni 40, lui è stato considerato un grande, tant'è vero che ci sono dei film che all'epoca hanno segnato la storia. Si potrebbe riuscire a tracciare una tematica, come dire, no? Un fil rouge nella produzione di Eisen e soprattutto nei sei film che compongono il cofanetto? Voglio dire, c'è qualcosa che li unisce, che li tiene insieme, qualcosa di stilistico piuttosto che di tematico? Direi di sì. In realtà è lo stesso filo rosso che unisce quasi tutte le commedie dell'epoca, è la battaglia, la guerra dei sessi. Uomo contro donna, che poi diventi amore. Questo è il tema della signora di mezzanotte, è il tema anche della Non c'è tempo per l'amore, di Arrivederci in Francia, di Schiave della città, ovvero ci sono sempre queste eroine molto forti che pensano di essere donne il cui unico scopo è la carriera e che l'amore non conta, per poi poter capitolare. E con questa parentesi dedicata a Mitchell Eisen e ai suoi film da riscoprire in DVD, noi chiudiamo la puntata della Rosa Purpurea. L'appuntamento va come sempre fra sette giorni qui su Radio 24, sarà una puntata che avrà al centro l'uscita del nuovo capitolo della saga di Terminator ed è sicuramente un film che rianimerà molti appassionati di questo personaggio e dei precedenti film adesso dedicati, quindi appuntamento a sabato alle 18 e a domenica in replica alle 9 del mattino, sempre qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti.